Giuditta disse: inneggiate a Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, componete per Lui un salmo di lode, esaltate e invocate il Suo nome. Sì, un Dio che stronca le guerre è il Signore. Ha posto il Suo accampamento in mezzo al Suo popolo, mi sottrasse dalla mano dei miei persecutori. Venne Assur dalle montagne, dal settentrione, venne con le miriadi del suo esercito, la loro moltitudine ostruì i torrenti, i loro cavalli coprirono i colli. Decretò di mettere a fuoco la mia terra, di far passare a fil di spada i miei giovani, di sbattere al suolo i miei lattanti, di consegnare in bottino i miei fanciulli, di prendere come spoglie le mie vergini. Il Signore Onnipotente li ha respinti per la mano di una donna, poiché il loro eroe non soccombette sotto il colpo di giovani, né figli di titani lo colpirono, né eccelsi giganti lo sopraffecero, ma Giuditta, figlia di Merari, con la bellezza del suo volto lo fiaccò. Depose l'abito della vedovanza per il conforto degli afflitti in Israele, unse il suo volto con profumo, cinse le sue chiome con un diadema, rivestì una veste di lino per sedurlo. I suoi sandali rapirono lo sguardo di lui, la sua bellezza cattivò la sua anima, la scimitarra trapassò il suo collo. Fremettero i persiani per l'audacia di lei e i medi si sbigottirono per la di lei arditezza. Allora grida di guerra alzarono i miei meschini e quelli furono atterriti. Gridarono i miei deboli e quelli crollarono. Elevarono la loro voce e quelli presero la fuga. Figli di giovinette li trafissero, li trapassarono come figli di disertori, perirono nella battaglia del mio Signore. Canterò al mio Dio un inno nuovo. Signore, grande sei Tu e glorioso, mirabile nella Tua potenza e insuperabile. Ti serva tutta la Tua creazione, perché hai detto una parola e tutte le cose furono create. Hai inviato il Tuo Spirito e furono formate. Non c'è nessuno che possa resistere alla Tua voce. Dalle fondamenta i monti crolleranno per mescolarsi con le acque. Le rocce davanti a Te, come cera, si liquefaranno. Ma a quelli che Ti temono, Ti mostrerai sempre propizio. Poca cosa è ogni sacrificio di soave odore, e meno ancora ogni grasso offerto a Te in olocausto. Ma chi teme il Signore è grande per sempre. Guai alle nazioni che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente le castigherà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, ed essi piangeranno di dolore per sempre. Quando giunsero a Gerusalemme, adorarono Dio, e dopo che il popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti, le offerte spontanee e i doni. Giuditta dedicò come cosa consacrata a Dio tutti gli oggetti di Oloferne che il popolo le aveva donato e la cortina che aveva preso ella stessa nella camera di lui. Il popolo si diede a far festa in Gerusalemme davanti al santuario per il periodo di 3 mesi e Giuditta rimase con loro. Trascorsi quei giorni, ciascuno fece ritorno alla propria dimora e Giuditta, ritiratasi a Betulia, rimase nei suoi possedimenti, diventando famosa in tutto il paese durante il tempo della sua vita. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo ebbe rapporti con lei durante tutti i giorni della sua vita, da quando morì il marito di lei, Manasse, e fu riunito al suo popolo. La fama di lei continuò a crescere enormemente e protrasse la vecchiaia nella casa del proprio marito fino a 105 anni. Rese la libertà alla propria ancella. Morì a Betulia e fu sepolta nella cava sepolcrale di suo marito Manasse. La casa di Israele la pianse per 7 giorni. Prima di morire, aveva distribuito i suoi beni tra i prossimi parenti di Manasse, suo marito, e tra i prossimi parenti della sua famiglia. Non vi fu più alcuno che incutesse timore agli israeliti al tempo di Giuditta, e per lungo tempo ancora dopo la sua morte.